Allora, stamattina vi racconto questa storia. Stamattina sono andato in bagno e ho rimosso temporaneamente lo specchio del mio bagno perché lo sto sistemando e per guardarmi ho utilizzato il mio cellulare. Sapete che potete attivare la telecamera, quindi le donne non hanno più il piccolo specchio nella loro borsetta, ora basta che utilizzano lo smartphone, basta che metti la videocamera e ti puoi specchiare. La cosa più bella è che stamattina, mettendo il mio cellulare lì sul lavandino, ho scoperto una nuova opzione che il mio cellulare ha, che è particolare perché basta che tu guardi e lui riconosce la bellezza del soggetto ripreso e l'età. E quindi c'era scritto, mentre io mi inquadravo e sistemavo i capelli, uomo bellissimo, naturalmente non poteva essere diversamente, uomo bellissimo, età 25, 29, 32, dipendeva dall'angolazione, diciamo, dei capelli, perché chiaramente più riprendevo i capelli più si alzava l'età. Però io sono grato a Dio per questo cellulare perché mi dice cose positive. Se vuoi sapere la marca e il modello, poi te lo passo. Però vogliamo fare una cosa, vogliamo alzarci in piedi e dire qualcosa di bello a qualcuno che è vicino a noi. Di qualcosa di bello. Magari chiedigli l'età e ne dimostri meno di 10, almeno 10 in meno. Siete bellissimi, almeno visti da qua, siete tutti molto belli. Avete un bel sorriso, siamo felici di essere insieme perché siamo un gruppo di persone davvero belle. E belle perché Gesù ci ha trasformati, vero? Gesù rende più belle le persone, l'avete notato? Quando qualcuno ha Gesù dentro lo riconosci. Ero qualche giorno fa a un funerale e ho intravisto delle persone e c'era qualcosa in un funerale, no? C'è comunque quell'atmosfera di tristezza, di serietà. Però io leggevo in questa coppia che c'era qualcosa di diverso, sono andato a salutarli per poi scoprire che erano dei credenti e io non lo sapevo, non sapevo che vivessero con Gesù, ma si leggeva qualcosa negli occhi: Gesù ci rende più belli, Gesù ci rende bellissimi. Perché Gesù è vita, Gesù è bellezza, Gesù è pienezza di bellezza e quindi noi diventiamo più belli con Lui. Ok, però non è il messaggio di oggi. Il messaggio di oggi, fatemelo leggere negli appunti, sono relazioni sane. Noi vogliamo relazioni sane, amen? È per questo che parliamo di padri, abbiamo la festa dei padri, poi avremo la festa delle madri. Ci inventeremo la festa anche dei nonni, dei cugini, degli zii, dei nipoti, perché noi promuoviamo le relazioni. La festa degli amici non ce l'abbiamo ancora, possiamo fare la festa degli amici, dei vicini di casa. Noi vogliamo vivere relazioni sane perché la parola di Dio ci invita a vivere delle relazioni sane, anzi dovrei dirlo meglio, Dio ci dà attraverso la sua parola l'opportunità e la garanzia di vivere relazioni sane. Quindi se oggi ti ritrovi qui con me e dici, non tutte le mie relazioni funzionano al meglio, sei nel posto giusto, al momento giusto, perché insieme scopriremo che cosa la Bibbia ha da dirci, cosa Dio ci dice per avere delle relazioni che siano sane. Noi vogliamo relazioni sane, per questo abbiamo il corso delle coppie, il corso prematrimoniale, vogliamo dei matrimoni sane, abbiamo l'incontro dei giovani perché vogliamo che i giovani si incontrano in un luogo che è sano. sano che permette a ciascuno di noi di relazionarci in una maniera che è edificante gli uni nei confronti degli altri. Ed è per questo anche che noi abbiamo i gruppi familiari. È stato bello, grazie Antonio, che ci hai divisi in gruppi familiari. E il motivo per il quale noi abbiamo i gruppi familiari è perché noi crediamo che la Chiesa, secondo quanto ci viene insegnato dalla parola di Dio, è relazionarsi, è vivere relazioni. Non esiste Chiesa senza relazioni. Siete d'accordo? L'avete letto anche voi nella Bibbia? Ed è per questo che noi non possiamo solo venire qui la domenica, abbiamo la necessità di essere parte di un gruppo più piccolo di persone che hanno la possibilità di relazionarsi, di pregare gli uni nei confronti degli altri, di conoscere gli uni i problemi degli altri, gli uni le sfide degli altri, e conoscerci per essere edificati, sostenuti, corretti in unità attraverso le relazioni. Io voglio parlare di relazioni perché la Bibbia dice che dalle relazioni provengono le benedizioni, da relazioni sane provengono benedizioni. Nel Salmo 1, vorrei partire da questo, il primissimo Salmo, il libro dei Salmi si apre con queste parole e dice: beato l'uomo. Le prime parole dei Salmi sono: beato l'uomo. Beato significa felice, felice l'uomo, benedetto l'uomo, sereno l'uomo. Che bello che il libro dei Salmi comincia con questo invito a vivere una vita che è benedetta, che è felice, che è sana. E poi va avanti dicendo: beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto, il cui amore, la cui passione è nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà, ascoltate bene, egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce. E tutto quello che fa prospererà, tutto quello che fa prospererà. Sapete in altri termini che cosa sta dicendo la parola di Dio in questo brano e in tanti altri brani ci viene ripresentato? Che il segreto per una vita felice sta nell'avere due relazioni, due tipologie di relazioni che funzionano bene. La prima relazione è la nostra relazione verticale con Dio in persona. È per questo che parla del diletto di avere piacere, passione nella parola di Dio, nella legge di Dio, perché Dio si relaziona con noi attraverso la parola di Dio, attraverso la Bibbia. Vuoi essere beato? Vuoi essere felice? Vuoi essere fruttuoso, vuoi essere prospero, non far mai mancare nella tua giornata un tempo nel quale tu ti apparti per leggere e meditare la parola di Dio, la Bibbia. È per questo che quando ci riuniamo noi leggiamo sempre la parola di Dio. È questo che mette un sorriso sui nostri volti. È questo che dà gioia alle nostre vite. Leggi la parola di Dio. Forse non l'hai fatto questa settimana, forse è da tempo che non hai una sana relazione con Dio. Il mio incoraggiamento è: datti un'occasione nella settimana che ti sta davanti, impegnati nella settimana che ti sta davanti, nei gruppi familiari, incoraggiamoci a vicenda a leggere la Bibbia, a meditare la parola di Dio, a avere un vigoroso rapporto verticale con il nostro Padre Celeste, con il Creatore. Noi sappiamo che non solo è leggere la parola di Dio, ma anche proprio pregare. E sapete, questo aspetto, l'aspetto della relazione con Dio, e poi naturalmente la relazione con gli altri, questa è la seconda cerchia che ci porta a benedizione, avere le giuste compagnie, è qualcosa che ci viene proposto anche in Giovanni 15. Vi ricordate quando Gesù parla del tralcio che per portare frutto deve essere innestato alla vite? Dice: io sono la vite, voi siete i tralci, senza di me voi non potete portare frutto. Dopo qualche verso, lui dice: dimorate nel mio amore, dimorate nel mio amore. Qualche settimana fa c'è stato predicato un bellissimo messaggio sull'amore di Dio che è manifestato attraverso la grazia che abbiamo in Cristo Gesù. Lui ha dato la sua vita per noi. Gesù è venuto su questa terra per manifestare l'amore del Padre, per pagare al nostro posto la pena e la condanna del peccato su quella croce. Dio ci ama. E Dio fa appello attraverso le parole di Cristo Gesù a ciascuno di noi di dimorare nel suo amore. Dimoriamo nel suo amore. Questa è la fonte di benedizione. Questa è in fondo la chiave di sani rapporti. È molto semplice. Se ti stai chiedendo come posso avere un buon matrimonio, come posso aiutare meglio i miei figli, come posso avere delle sane relazioni in famiglia, in chiesa, al lavoro? La chiave di tutto è avere una sana relazione con Dio. È vero? Quando stiamo con Dio, alla sua presenza, preghiamo, meditiamo sulla sua parola, quando siamo in comunione con il Dio Altissimo e lo adoriamo e entriamo in comunione con Lui e ci assicuriamo che la nostra relazione personale sia sana, inevitabilmente siamo resi capaci di amare gli altri, di perdonare più facilmente, di irritarci molto più difficilmente, di essere un buon mezzo per portare beneficio a tutte le relazioni, tutto attorno a noi. Gesù dice: dimorate nel mio amore. E poi qualche verso dopo, lo potete leggere con me in Giovanni capitolo 15, questi sono i versi 9 e 12, qualche verso dopo dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Cioè Gesù prima sta dicendo: dimorate nel mio amore, abbiate una relazione vigorosa con me, dipendiamo gli uni dagli altri, dimorate nelle mie parole, mettete al centro la parola mia, la Bibbia, pregate, state in comunione con me. E poi dice: il comandamento che vi lascio è: amate anche gli altri. Il nostro amare gli altri è proporzionato a quanto viviamo una sana relazione con Dio e un vincolo di relazione d'amore con il nostro Padre Celeste. Amen? Ora, c'è un altro verso che voglio leggere con voi, che si trova in Proverbi 13, versetto 20. No, scusate, Proverbi 18, versetto 1, che dice... Sono forti queste parole, leggetele con me. Dice che chi si separa dagli altri cerca la propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto. Lo rileggo. Chi si separa dagli altri cerca la propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto. Un'altra versione dice: si irrita contro i consigli altrui. Si irrita contro i consigli altrui. La parola di Dio in questo verso sta dicendo che il nostro vivere una vita isolata non porta benedizione. Ci porta ad essere allontanati da tutto ciò che ci può fare del bene, dai consigli giusti. Se noi veniamo in chiesa la domenica e siamo parte di una folla e ci assicuriamo giorno dopo giorno di avere un'ottima relazione con Dio in preghiera, in lettura, sapete cosa dice la parola di Dio stessa che noi leggiamo ogni giorno? Che senza una relazione sana con gli altri noi deficiamo di qualcosa. Noi abbiamo una carenza, una mancanza nella nostra vita. Noi ci stiamo isolando da altre benedizioni che provengono dal relazionarci con i nostri fratelli, con le nostre sorelle, con le persone che hanno un contributo da dare nella nostra vita. L'isolamento non fa bene a nessuno di noi ed è per questo che Gesù ha costituito la Chiesa. Noi siamo qui stasera e chiamiamo questo incontro di Chiesa, e quello che noi facciamo nell'incontro di Chiesa non è solo incontrare Cristo Gesù in lode, adorazione, preghiera e meditazione della sua parola, ma è anche incontrare gli altri, perché noi abbiamo bisogno degli altri. Lo sai che ti stai isolando? Spesso siamo isolati e tendiamo a isolarci perché siamo delusi dalle relazioni, perché siamo feriti da episodi che ci sono successi nel nostro passato e crediamo di farci del bene nell'allontanarci da relazioni con altre persone. Crediamo di poter stare bene stando privandoci della benedizione di fratelli e di sorelle nella nostra vita. La parola di Dio dice che non funziona così. La parola di Dio dice che noi abbiamo bisogno di relazioni sane. Beato l'uomo che però seleziona anche le sue relazioni. Quali sono le tue relazioni? A chi dai la possibilità di influenzare la tua vita? C'è quest'altro verso in Proverbi 13:20 che dice che chi va con i sapienti diventa sapiente. Chi va con i sapienti diventa sapiente, chi va con gli stolti finirà male. Finirà male. Chi va con i sapienti diventa sapiente, chi va con gli stolti finirà male. Un altro verso nella parola di Dio dove Dio ci invita a scegliere e selezionare le nostre compagnie, le nostre relazioni. Con chi ti stai relazionando? Forse finora hai pensato nella tua vita che le relazioni sono qualcosa che ti capita, qualcosa che non puoi sceglierti, qualcosa che andando avanti nel percorso di vita ti succede, ti piomba addosso. La parola di Dio invece dice che siamo noi che scegliamo le nostre relazioni. Certo, ci sono relazioni che non abbiamo la possibilità di scegliere, ma c'è una parte di relazioni nella nostra vita che noi abbiamo la possibilità di scegliere e dobbiamo essere saggi nel sceglierla bene. Vai con i saggi, vai con le persone sapienti. Sapete chi sono le persone sapienti? Sono quelle persone che hanno un buon rapporto con Dio e hanno un buon rapporto con gli altri e dimostrano nella loro condotta di vita di seguire l'esempio di Cristo Gesù, di fare scelte che sono in linea e in accordo con la parola di Dio. Quelle sono persone sagge, quelle sono le persone che noi dobbiamo cercare. Sapete una cosa? A volte è molto più facile relazionarsi e ritrovarsi con persone stolte che non con persone sagge. Le persone stolte molto spesso non le dobbiamo neanche cercare. Sono le persone a volte più divertenti con le quali esce la bella serata insieme, no? Sono quelle che ti mandano il messaggio, che ti cercano, che ti coinvolgono nelle loro idee, nelle loro proposte, nelle loro iniziative. Sono persone che si affacciano nella tua vita che tu non devi cercare. E sono a volte anche le persone più simpatiche. Sono persone piene di carisma, sono persone simpatiche, che però a fine serata, se sei sincero con te stesso, tornando a casa, non hanno contribuito a niente nella tua vita. Piuttosto, probabilmente, ti hanno portato a sparlare, a criticare, a vivere cose che non avresti voluto vivere. Quelle sono persone dalle quali noi dobbiamo separarci, è la parola di Dio che ce lo dice. E dobbiamo selezionare invece quelle persone che a volte sono più difficili da cercare, sono più difficili da contattare, che hanno meno tempo a disposizione perché sono sagge e stanno investendo il loro tempo in una maniera saggia. E quelle persone sono quelle persone che noi dobbiamo ricercare. Io mi ricordo in Australia, avevo a disposizione 2 mesi di tempo, ero andato lì proprio per vivere un tempo che mi avrebbe fatto del bene, mi avrebbe edificato, nel quale avrei staccato con tutto e con tutti e avrei cercato la presenza di Dio e ricostruito il mio rapporto con Lui. E in questo processo, in questi mesi che ho passato in Australia, ho voluto specificatamente parlare con un pastore. E ho insistito la prima volta, e poi sono andato una seconda volta, e questa disponibilità sembrava che non ci fosse. Però poi questo pastore ha dimostrato interesse, forse perché l'ho stressato a tal punto che ha detto va bene, dai, ti concedo una mezz'ora del mio tempo, però è stato straordinario perché nel mio bussare, nel mio cercarlo, nel mio chiedergli disponibilità, si è aperta un'opportunità straordinaria. Lui ha detto, vieni Mirko, vieni con me, andiamo a pranzo insieme. E non eravamo più solo noi due. Ma straordinariamente Dio ha voluto che quel pastore fosse in compagnia con altri 3-4 pastori da altre parti del mondo che avrebbero pranzato insieme a noi. E io mi ritrovo in questo ristorante ad aprire il mio cuore e a chiedere aiuto non più solo a un pastore, ma a 4 pastori che vengono a sapere tutto di me e cominciano a impartire frasi sagge, indicazioni sagge, a correggermi, a indicarmi la vita, la via. E da quel momento in poi io posso dire che ho preso talmente tante cose che Dio ha trasformato il mio percorso e la mia vita. Io sono grato a Dio perché non devo andare in Australia per cercare queste persone. Sono attorno a me. Io ho la benedizione di vivere a fianco a persone che dimostrano di amare il Signore, di camminare con Lui e che sono sagge e sono forse delle persone scomode con le quali interfacciarmi. A volte mi correggono, ma portano ricchezza nella mia vita. Tu fai parte di un gruppo familiare, sentiti privilegiato del fatto che c'è un capogruppo, che ci sono altri fratelli e altre sorelle che amano il Signore e vogliono camminare con il Signore. Stai con loro, vivi relazioni dove intenzionalmente si mette Cristo Gesù al centro. Non andare facilmente a vivere altre serate, liberati per quella serata ogni 15 giorni affinché quelle relazioni possano portare edificazione in te. Amen? Ci piace? Oggi abbiamo la possibilità di celebrare insieme la cena del Signore. E in 1 Corinzi, al capitolo 10, versetto 17, noi leggiamo queste parole, proprio che riguardano la cena del Signore. È scritto, vi è un solo pane, e quindi formiamo un solo corpo. Anche se siamo molti, perché tutti insieme mangiamo quell'unico pane. Sapete in altri termini che cosa sta dicendo questo verso? Questo verso ci sta ricordando che un aspetto della cena del Signore, del vivere quello che andremo a vivere fra qualche minuto, è che ci ricorda che noi siamo uniti da qualcosa di più grande di una simpatia e di un'amicizia. La Chiesa non è unita perché si tratta di tante persone che la pensano alla stessa maniera, che votano lo stesso partito politico, che amano la stessa squadra di calcio, che hanno gli stessi gusti musicali, eccetera, eccetera. Noi siamo uniti da qualcosa che è molto più grande di tutte queste cose. Noi siamo uniti nel corpo di Cristo Gesù, nel suo sacrificio, in quello che Lui ha fatto per noi. È questo che ci unisce. Fratelli e sorelle, questa unione nessuno la può rompere. E questo è un mio appello anche a ciascuno di noi, a tornare al vero senso di fare chiesa. Io lo posso dire perché sono nato e cresciuto in chiesa. Sono sempre venuto in chiesa e a un certo punto nella mia vita mi sono reso conto che venivo in chiesa più per le amicizie che condividevo, per le relazioni che avevo costruito, che non perché avevo dato la mia vita a quel Cristo che era morto e risorto per me. Perché sei qui questa sera? Perché partecipi al live degli Upside Down? Se sei figlio di credente, perché vieni in chiesa? È per delle amicizie, è per la possibilità di condividere gusti insieme, è per la possibilità di uscire e andare al McDonald's e prenderti una pizza con amici che altrimenti non troverai? È il tuo riscatto sociale la chiesa? O sei qui perché Cristo Gesù è la cosa più importante per te e riconosci che la tua vita è salvata in virtù del suo sacrificio e in virtù di quel sacrificio che hai accettato e che ha cambiato per sempre la tua vita, ti senti unito e ti costringi ad essere completamente unito al tuo fratello e alla tua sorella, alla persona che ha la tua stessa età o la persona che è molto più anziana di te, la persona che ragiona con i tuoi stessi ragionamenti e la persona che non ragiona affatto. Noi siamo in chiesa e c'è qualcosa che ci unisce e noi dobbiamo tutelare questa unione e questa unità. Tu partecipi ai gruppi familiari non perché è la migliore comitiva che puoi trovare, ma perché è chiesa, perché si tratta di tuoi fratelli e tue sorelle che hanno riconosciuto come in te, in Cristo Gesù, il loro valore più grande. È troppo triste sentire credenti che lasciano la chiesa perché delusi nelle relazioni. È troppo triste quando sento di persone che non si sentono benedetti abbastanza perché in fondo stanno cercando di attirare l'attenzione su di sé. La nostra attenzione non è su noi stessi. La nostra attenzione quando noi ci riuniamo non è nelle nostre relazioni primariamente, ma nella relazione con Dio. E in virtù della relazione nostra verticale, poi siamo resi capaci di amare chiunque c'è attorno, chiunque il Signore ha messo attorno a noi. Io voglio concludere questo messaggio dandovi la possibilità di essere promotori di relazioni sane. Perché io non credo che siamo qui perché queste cose non le sappiamo. Siamo qui e amiamo relazionarci, amiamo gli altri perché amiamo Cristo Gesù. E quindi io voglio lasciare ciascuno di noi con la possibilità di essere dei promotori di relazioni sane. Perché sapete, promuovere delle relazioni sane non è compito del capogruppo e non è compito del pastore, è il compito di ciascuno di noi. Tutti noi abbiamo la possibilità di promuovere relazioni che sono secondo la volontà di Dio. E io ho trovato questa lista di 11 aspetti. Siete pronti a un elenco di 11 aspetti diversi che andremo a vedere insieme? Questi 11 aspetti diversi che ci permettono di essere promotori di relazioni sane. Posso vedere le mani di quanti a partire da oggi vogliono promuovere relazioni sane tutte attorno a loro, nella chiesa, in famiglia, al lavoro? Vedo tante mani che si alzano. Primo aspetto, prima che tu dica qualsiasi cosa, chiediti. Prima che tu dica qualsiasi cosa. Se vuoi promuovere delle buone relazioni, molto ha a che fare con quello che esce dalla tua bocca. Prima che tu dica qualsiasi cosa a qualcuno, chiediti, è del tutto vero? È del tutto vero quello che sto dicendo, quello che sto per dire? Troppo spesso facciamo degli errori nell'esagerare le cose, esasperarle, distorcere la realtà. È del tutto vero quello che stai per dire? Edifica quello che stai per dire. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona che edifica, secondo il bisogno, ditela affinché porti grazia a coloro che l'ascoltano. Questo dice la parola di Dio. Prima di dire qualcosa, chiediti, edifica questa cosa che sto per dire. Prima che tu dica qualsiasi cosa, chiediti, è necessario che io dica questa cosa? È necessario? Sapete che non tutto quello che diciamo è necessario dirlo? Non è necessario sempre dire tutto quello che ci passa per la testa. È necessario quello che stai per dire. Punto 2. Non fare troppe promesse. Non fare troppe promesse. Fanne poche e mantienile fedelmente. Sì, ci vedremo sicuramente la prossima settimana, sono a tua disposizione. Passa la prima settimana, la seconda settimana, la terza settimana, non si sente niente. Sì, sono a tua disposizione per qualsiasi cosa hai bisogno di me, chiamami e io ci sono. Lo chiami e non risponde. Mi manda il messaggio, spuntato su WhatsApp, che diavoleria quel WhatsApp, spuntato che vedi la doppia lineetta blu e non ti risponde. Vuoi promuovere delle relazioni sane? Fai poche promesse, fai quelle che puoi fare, però quando fai una promessa mantienila fedelmente. Punto 3, non perdere mai occasione di fare complimenti e dire qualcosa che incoraggi a tua moglie, a tuo marito, ai tuoi amici, a chi ti sta attorno. Non perdere occasione di fare complimenti. Noi istintivamente non perdiamo occasione di dire qualcosa che non va, vero? Ma che brutta faccia che c'hai oggi! Ma non hai dormito bene stanotte? Ti vedo ingrassata! L'ho detto al femminile perché colpisce di più, no? Ti vedo ingrassata! Serve davvero dirlo? Edifica! Fai dei complimenti, cuciti la bocca per queste cose, non inventarti bugie. Se la vedi ingrassata, non dire come ti vedo magra, non è il caso. Però magari non la vedi magra, ma ha una bella sciarpa. Che bella sciarpa che c'hai oggi! E da oggi tutte le volte che sentiremo che bella sciarpa che c'hai, sapremo che ci sta dicendo in fondo ti vedo ingrassata, non lo facciamo. Non perdere mai occasione di fare complimenti e dire qualcosa che incoraggi. Punto 4. Rifiuta di parlare negativamente di altri. Rifiuta di parlare negativamente degli altri. A volte mi arrivano messaggi, mi fanno appelli e per muovere la mia azione in qualità di pastore dicono non si è fatto questo, non si è fatto quest'altro e si parla male di altri miei fratelli e di altre mie sorelle. Sappiate una cosa, che questa cosa io non l'apprezzo. Se c'è un'emergenza, se c'è qualcosa, dimmi sinceramente cosa c'è di bisogno, che cosa io sto mancando, mi sta bene, dimmi io che cosa sto mancando, ma non parlarmi male dei fratelli e delle sorelle, perché io amo ciascuno di voi ed è così importante che noi non alimentiamo un modo di parlare che è negativo nei confronti degli altri. A volte parliamo male degli altri perché vogliamo uscirne noi più grandi. E quindi mettiamo in cattiva luce il prossimo per essere noi visti superiori. È sbagliato. Siamo tutti in cattiva luce. Siamo tutti sbagliati e manchiamo tutti in qualcosa. Rifiuta di parlare negativamente di altri e rifiutati di ascoltare chi lo fa. Rifiutati di ascoltare chi lo fa. Se in un contesto, se al bar con altri fratelli, altre sorelle o con amici o con colleghi di lavoro e si comincia a parlare male di qualcuno, puoi dirlo, puoi dire sapete questa conversazione non mi piace, non mi va di parlare male di altri. Non so chi siano, non so che hanno fatto, ma io non voglio parlare male. Questo è il 12° punto. Il 5° punto è abbi un approccio di grazia nei confronti delle persone. Abbi un approccio di grazia nei confronti delle persone. Siamo tutti mancanti. Vi ricordate quell'episodio dove Gesù dice, ok, è giusto, questa donna va lapidata. La legge dice questo. Avete ragione. Ok, il primo che senza peccato cominci lui a scagliare la pietra. Forza, la legge dice che è giusto. Sapete, solo uno poteva scagliare la pietra contro quella donna e poi contro tutti quegli uomini e quelle persone presenti. Ed era Gesù e lui non l'ha fatto. Abbi un approccio di grazia. Abbi un approccio di perdono, di grazia nei confronti delle persone, credi in loro e nel loro meglio. Magari adesso ti stanno manifestando il peggio del loro carattere, il peggio delle loro scelte. Ma sai, è un'istantanea che può cambiare e Dio vuole che cambi. Guarda in prospettiva profetica. Guarda oltre quello che è il danno, quella che è la mancanza, quella che è la caduta del tuo vicino. Guarda avanti. Un giorno sarà diverso, un giorno vincerà questa debolezza, un giorno, io lo so, potrà smettere di parlare in questa maniera. E nel frattempo io ho la possibilità di crescere nella pazienza, crescere nel perdono, crescere nella grazia e amarlo comunque come Gesù lo ama. Punto 5, abbi un approccio di grazia, l'abbiamo già detto. Punto 6, cerca il dialogo, non la discussione. Cerca il dialogo, non la discussione. Sapete cosa significa? Noi discutiamo perché molto spesso abbiamo una posizione e vogliamo che l'altro, che ha la sua posizione, si convinca della nostra posizione. E quindi siamo rigidi nella nostra posizione a scagliare contro tutte le verità e a farlo tacere, fargli ascoltare quello che noi abbiamo da dire. E l'altra persona fa l'esatta, identica cosa. E cosa succede? Che c'è discussione, c'è lite, non si arriva da nessuna parte, si fanno scintille e ci si separa e ognuno va per la propria strada. Il dialogo è ben diverso. Il dialogo prevede l'ascolto, ascoltare l'opinione dell'altro. Questo vale anche per quando presentiamo Cristo Gesù e annunciamo l'Evangelo. Dobbiamo presentarlo con grazia, ascoltiamo quella che è la posizione dell'altro. Magari l'altro ha da bestemmiare a Dio, ha da dire no, io non ci credo, io non voglio neanche starti ad ascoltare. Cosa facciamo? Discutiamo o cerchiamo un dialogo? Cerchiamo di comprendere perché è così arrabbiato, perché è nelle sue posizioni, per creare un ponte. Dio vuole che noi creiamo un ponte con le persone, non una rottura. Gesù creava un ponte con le persone, non creava rottura. E questa è la nostra posizione, anche nell'evangelizzazione. Punto 7, il punto 7 dice conta fino a 10. L'avete già sentita questa come cosa? Prima di parlare conta fino a 10 e fondamentalmente vuole dire ascolta prima di parlare. Ascolta. Qualcuno ha detto noi abbiamo due orecchie e una bocca per una ragione specifica. Dio ci ha creati così. E dobbiamo essere più propensi ad ascoltare che a parlare. Quanto amore c'è nell'ascolto. Oggi lo condividevo con Vito stamattina. Quanto è bello ritrovarmi con persone, appuntamenti, dove mi do l'occasione di ascoltare. Anche di ascoltare la sofferenza dell'altro, io lo vivo come un privilegio ed è un gesto ed è una manifestazione di amore davvero molto importante. Impariamo ad ascoltarci, prenditi del tempo, e anche se torni a casa e dici ma ha parlato tutto il tempo solo lui, io non ho avuto modo di dire niente. Vivi il privilegio di aver ascoltato quella persona, perché nell'ascoltare tu ami. Punto 8, ce la stiamo facendo. Lascia che le tue virtù parlino da sole. Lascia che le tue virtù parlino da sole. Avete mai sentito, avete mai detto? Tu devi dire grazie che io sono una persona umile. Tu devi ringraziare il cielo che io non mi arrabbio. È patetico. Non parlare delle tue virtù, non parlare di ciò che io sono una persona buona, io amo, io perdono, io questo, io quest'altro, non serve a niente, manifesta le tue virtù. Non parlarne, non le fare uscire dalla tua bocca, falle uscire dai tuoi gesti. Punto 9. Accetta le critiche, sta aiutando qualcuno tutto questo, ci mette un po' in crisi, ci fa del bene, siamo quasi arrivati, altri 3, 9, accetta le critiche anche quando vengono dette nel modo sbagliato, accetta le critiche, accetta di essere criticato, non puoi piacere a tutti, qualcuno ti criticherà ed è inutile fare la guerra. È inutile fare la guerra, accetta le critiche. Questa, la cosa bella di questo punto, non l'ho scritto io, qualcuno di saggio l'ha scritto. Se c'è qualcosa di vero in quello che ti viene detto, sforzati di cambiare. Tu puoi addirittura crescere da qualcuno attraverso qualcuno che ti odia e che ti critica in una maniera aspra. Non è meraviglioso? Questo è proprio il massimo dell'umiltà. Imparare e cambiare da qualcuno che ti odia e critica te in una maniera aspra, aperta, magari sparlando di te agli altri. Ma se dice qualcosa che è vero e che tu riconosci in te stesso, perché non cambiare? Ascolta le critiche. Se non sono vere, non farle pesare nella tua vita. Non permettere al giudizio che ti abbatta, che la condanna ti schiacci. Ma se c'è una verità, mettilo davanti a Dio. Dì, Signore, ma davvero sono così? Forse quella persona l'ha detto male, ma forse veramente io dovrei cambiare. Aiutami a cambiare in questo. Perché sapete, quando noi ci guardiamo allo specchio, non riusciamo a vedere tutto di noi. Abbiamo bisogno di una prospettiva diversa, di persone che ci guardano a 360 gradi e ci dicono quello che vedono di noi per poter cambiare, per poter migliorare. Punto 10, non prenderti troppo sul serio. Sii autoironico. Sei ingrassata? Dillo a tutti. Come mi vedi? Non mi vedi ingrassata? Così anticipi la persona e non ha la possibilità di dirtelo, no? Sii autoironico, prenditi in giro. Non essere seria su te stesso. Sorridi e porta sorrisi attorno a te. E la cosa migliore, l'ironia migliore, è farla su te stesso piuttosto che sugli altri. Perché nei confronti degli altri puoi ferire e puoi far male. Ma nei confronti di te stesso ne esci ancora più forte, sicuro e stabile in te stesso, nella tua identità. Ultimo punto, 11, non cercare tanto di essere consolato quanto di consolare. Non cercare tanto di essere capito quanto di capire. Non cercare tanto di essere amato quanto di amare. La regola d'oro è quello che Gesù insegna nel Sermone sul Monte. Fai agli altri quello che vorresti che gli altri facciano a te. Non venire in chiesa a dire io, ma nessuno mi ama, nessuno mi accoglie. Ama tu. Nessuno mi capisce in questa stanza. Dov'è? C'è qualcuno. Cerca di capire tu gli altri. Fai tu quello che il Signore ti chiama a fare. E sai come lo puoi fare? Avendo una buona e sana relazione con Dio. Molto spesso chi manca nella relazione con Dio cerca gratificazione nella relazione degli altri. Sapete, gli altri non ci possono mai gratificare e riempire del tutto. È solo Dio che ci dà una piena e completa identità di noi stessi e ci dà forza e ci dà la possibilità di essere coloro che consolano, coloro che amano, coloro che rafforzano gli altri, piuttosto che pretendere tutte queste cose sempre dagli altri. Vogliamo alzarci in piedi? Abbiamo, lo ripeto, la meravigliosa opportunità di partecipare alla cena del Signore stasera. Facciamolo con qualcuno. Noi invitiamo a partecipare alla cena del Signore tutti coloro che si sono battezzati da adulti, hanno fatto una scelta consapevole di voler seguire Gesù Cristo, che riconoscono il valore del sacrificio di Gesù, il valore della sua morte, della sua resurrezione. Quindi questa sera, se tu sei battezzato e vuoi partecipare alla cena, ti chiedo, cerca qualcuno che con il quale pregare e stare in comunione, perché le relazioni ci fanno del bene e ci benedicono. Vogliamo pregare? Chiudiamo i nostri occhi. Padre, noi ti ringraziamo per la tua parola. È così ricca e meravigliosa, e noi ti ringraziamo perché tu ci chiami ad essere uomini e donne beati, pieni di vita, benedetti, prosperi, e questo noi vogliamo essere. E non vogliamo farci derubare delle benedizioni che tu hai per noi dal nostro carattere, dal percorso di vita vissuto finora. Vogliamo essere dei promotori di relazioni sane. Vogliamo cambiare il nostro modo di parlare. Vogliamo cambiare il nostro modo di agire. E Padre, sinceramente, nessuno in questa stanza può dire di riuscirci pienamente. Solo tu, Gesù, ci sei riuscito pienamente. Chiediamo il tuo intervento, io per me stesso, ma lo prego anche per tutta la mia chiesa, per tutti i miei fratelli, per tutte le mie sorelle. Dacci occasione di essere promotori di relazioni sane. Dacci occasione di essere così pieni di grazia da essere attraenti per gli altri. Dacci occasione, Padre, di essere i primi ad amare, a consolare, a benedire, piuttosto che essere alla ricerca ricerca continua di essere amati, consolati e benedetti. Padre, noi vogliamo vivere come tu hai vissuto e noi ti ringraziamo per la ricchezza della tua parola che ci guida in ogni benedizione. Grazie anche per quello che tu hai fatto per noi. Grazie perché i nostri peccati sono perdonati in Cristo Gesù. E grazie perché ogni nostra mancanza, il non aver letto questa settimana la tua parola, il non aver pregato, il non essere stato in comunione, è qualcosa che tu ci perdoni. E io prego, Padre, che il tuo perdono possa essere elargito su ciascuno di noi questa sera e che in virtù del tuo perdono noi possiamo santificarci e migliorare, vivere una nuova settimana all'insegna della tua parola e facendo la tua volontà pieno. Grazie Gesù per quello che tu hai fatto, benedico questo pane e il vino nel nome di Cristo Gesù e questo tempo che andremo a vivere insieme.